Rieccoci in diretta con Radio Wombat. È sabato 16 maggio, sono 19:23, sono un pochino in ritardo ma non troppo. Quest'oggi vi propino come la volta scorsa, anzi vi propongo come la volta scorsa la quarta puntata dello speciale Canna e Camicia, o forse era la terza, no, perché abbiamo fatto Uno, due. No, no, no, no. Secondo me è la terza puntata di Canna e Camicia. E ve la propongo di nuovo in apertura. Intanto, però, mi devo un attimo organizzare per metterla. Quindi, vi lascio ancora con un pochino di musica. Questa volta parleremo, credo, delle sospensioni. Dei freni o delle sospensioni. Un attimo, che ora vado a rivedere nei miei appunti cartacei. Oggi parleremo dei freni, esatto, ed è la terza puntata. Quindi, un attimino che mi preparo, dopodiché, appunto, sentirete non la mia voce, ma la voce, del nostro meccanico, divulgatore. E quindi ci risentiamo poi a quando la puntata è finita. Anche quest'oggi è abbastanza densa, è intervallata da musica a tema. La scelta musicale è particolarmente ricercata perché dovrete notare che tutti i pezzi sono a tema con le cose di cui si sta parlando. E questo non è cosa da poco, grande stile. Tra l'altro, un'indiscrezione non ancora confermata, ma mi dice che prossimamente questo spazio troverà una destinazione propria, una trasmissione propria. Quindi si slegherà da Coccoli al Silicio e diventerà una trasmissione autonoma. Già mi vengono un po' le lacrimucce, me lo ricordavo che era alto così e ora invece guarda che cosa è diventato. E quindi niente, ora mi preparo, vi lascio della musica e poi tra un pochino Canna e Camicia numero 3, la saga dei freni. Bomba. Vi siete accorti che ho fatto riniziare la traccia perché sono andato un po' lungo nel riuscire a recuperare la trasmissione, appunto, la puntata canna e camicia. In realtà c'ho ancora da finire di scaricare perché sono arrivato un pochino tardi nella preparazione, cioè nella mia testa tutto era già delineato, ma nella pratica non avevo fatto un cazzo nulla e quindi tant'è. Allora vi introduco intanto una delle notizie che mi piacerebbe discutere, cioè raccontarti oggi, quindi faccio un'anticipazione di un tema che tratterò dopo. Ebbene, avevo letto un articoletto che raccontava che in Inghilterra stavano sperimentando la propria app, che non è fatta come la nostra con le api di Google e di Apple. Non le hanno aspettate, l'hanno sviluppato un'app propria che ora stanno testando. E dove la stanno testando? La stanno testando sull'isola di White. L'isola di White fa ridere, era quella della canzone anni, quella dei fricchettoni, quella là. Ebbene sì, e in Inghilterra hanno deciso che l'isola di White era il posto giusto dove fare questo test, essenzialmente perché trattasi di un'isoletta con, mi sembra, 150.000 abitanti, quindi un campione abbastanza rappresentativo, ma non grosso per incasinare tutto, nel senso che probabilmente buttarla anche solo in una Londra per affinare il cosiddetto algoritmo, no? Per vedere un po' come si comportava, era una roba un po' traumatica e quindi hanno pensato bene di scegliere un luogo più piccino, più isolato e per fare appunto questa sperimentazione. Ora, se mi ritrovo l'articoletto, eccolo, ve lo racconto un pochino meglio. Quest'isola appunto ha un totale, appunto, come dicevo, di 100, sì, 150.000 abitanti circa, e gli attuali contagi presenti sull'isola sono un numero abbastanza minuscolo. Avevo trovato un articolo dove era scritto e si parla veramente di una roba che se non è, se arriva a 100, ce ne sono, a 100 ce ne sono già tanti, cioè hanno un piccolissimo numero di contagi nell'isola. E in questo senso è stata scelta anche per questo, secondo me perché era quasi un successo sicuro, nel senso che avrebbe diciamo permesso di sperimentare questa cosa non in un ambiente con un'altra componente di falsi positivi, per il fatto che di positivi ce ne sono pochissimi, quindi difficilmente sì, qualcuno avrebbe incontrato una persona malata di Covid che poi avrebbe segnalato la cosa dall'app, e quindi l'app sarebbe stata messa alla prova in questo senso, nel dire ok, ma vediamo quant'è esatto la segnalazione che mi fa, cioè quante sono quelle persone che sono entrate a contatto con un malato che ricevono la segnalazione ma in realtà l'hanno incontrato, che ne so, al di là di un muro, oppure l'hanno incontrato sì ma uno stava in cima all'autobus e l'altro stava in fondo, oppure l'hanno incontrato boh, per caso perché erano tutte e due, che ne so, in fila al supermercato, ma io stavo 10 metri indietro, lui 10 metri avanti. Insomma, tutte queste situazioni che sono poi la questione, il quid del contact tracing fatto in questo modo, cioè nel senso che quanti falsi positivi genera e poi chi controlla quei falsi positivi e in che modo poi viene gestito questo dato. Quindi secondo me nell'isola è stata scelta proprio perché era un campione che poteva confermare il funzionamento di questo oggetto senza metterlo eccessivamente sotto stress e quindi incasinandolo prima, del tempo, cioè prima della prova vera, che è quella quando lo ributti a Londra e vedi se la gente te lo scarica. Qua sull'isola l'app è stata poi scaricata anche da un numero molto alto della popolazione, cioè da 40.000 persone, che è il 70% della popolazione. Mi sembrava in realtà che la popolazione fosse più elevata, però forse parlavano di 70% di quelli che hanno lo smartphone, perché mi sembrava che ci avesse più abitanti l'isola di Wight. Vabbè, comunque, se riesco a capirlo durante la trasmissione vi aggiorno. Tra l'altro l'app inglese ha un nome molto, molto interessante. Cioè, non molto interessante, che è più bello del nostro, cioè, nel senso che il nostro ha un nome Temmuni, non è tanto bellino. Invece loro hanno scelto un nome che sembra veramente la marca di una moto, cioè di una moto di quelle, oppure di uno scooter, ma di quelli fighi. Cioè, l'hanno chiamata NHSX. Cioè, no? Cioè, sembra un po' un oggetto, c'ho l'NHSX. Cioè, uno pensa che non è un'app, pensa che è una cosa così. E niente, l'app poi quando è uscita in Inghilterra tendenzialmente è stato un è uscita un po' tra le polemiche, appunto perché loro non hanno scelto questa via più light che pare abbiamo scelto noi, cioè quella di aspettare Google e Apple, che comunque ti danno in qualche modo il là a un progetto molto light a quanto sembra in termini di riservatezza della gestione delle informazioni. Secondo me questo non è il problema cruciale, nel senso che io penso che ci sia un problema nel tracciamento in sé, qualunque sia, cioè è complesso chiedere a una persona di accettare di venire tracciata, anche nel momento in cui questo tracciamento è completamente anonimo, essenzialmente perché tu mi stai tracciando. Nel senso che mentre il contact tracing fatto sul malato avviene nel momento in cui c'è una persona malata e bisogna ricostruire i contatti, il tracciamento che tu stai facendo a me è comunque un tracciamento, anche se io non incontrerò mai nessun malato, anche se io non sarò mai segnalato dall'app. Comunque sto accettando un meccanismo di tracciamento su la mia giornata. Che poi questo tracciamento non sia in grado di delineare attraverso GPS magari i miei movimenti, ma sia delineato solo a tutti i contatti, che questi contatti siano, come viene specificato nel testo di legge, anonimi o pseudoanonimi. Con quello pseudoanonimo non si capisce che cazzo vuol dire, o se è anonimo, no, pseudo, ma insomma è abbastanza, dal mio punto di vista, problematico, anche perché io non ritengo che questi strumenti siano fondamentali o se siano equiparabili, cioè penso che hanno un interesse modesto, sicuramente non equiparabile all'efficienza di una sanità pubblica, a un contact tracing fatto di senso da delle persone. A tutte cose, cioè viene praticamente nel fondo della scala di priorità, viene sotto sotto sotto sotto sotto sotto, e quindi boh, io non ritengo questa cosa così centrale e così fondamentale, o almeno lo ritengo molto meno rispetto a altre cose che invece tendenzialmente vengono fatte, ma non si capisce bene come vengano fatte in ogni regione. Penso che dai nuovi decreti dovrebbero esserci soldi per questa sanità di prossimità, si dovrebbero provare degli esperimenti di sanità addirittura di quartiere, no? Con infermieri di quartiere, cioè cose di questo tipo che secondo me fanno la differenza in questa situazione e nella gestione poi subitanea dei problemi di contagio, ma anche dei disagi l'essere contagioso porta alla persona, cioè il dover rimanere comunque in casa, il dover dipendere da qualcuno che ti fa la spesa, l'essere visitato, perché io mi posso anche chiudere in casa, ma se nessuno mi viene a visitare, sto 2 settimane con la febbre a 39, non mi scende e un medico non lo vedo mai, questo è un problema. E appunto, cioè tutte queste cose qua, sono per me molto più importanti di sta cosa dell'app. E appunto vi dicevo, ora forse ho ritrovato l'articoletto dove si dice appunto quanti abitanti ci sono sull'isola di White, così uno si fa un'idea. Boh, no, cavolo, non riesco più a trovare, eppure era un numerino del genere. Vabbè, facciamo che non è importante. Se poi dopo mi riesce a ritrovarlo ve lo dico, però rendeva bene l'idea. È anche interessante come viene riportata questa cosa. C'è un articolo su Repubblica dove viene citato un virgolettato, sembra un'intervista. Ah, ed è un'intervista a questo deputato nella circoscrizione dell'isola di White, che è uno di quelli che ha voluto questa sperimentazione sull'isola, perché ha detto rientra nel nostro nel paradigma, diciamo, della del, cioè, nel nostro caso utile per la sperimentazione. E lui ha giustificato la cosa dell'importanza. E, di questa app, addirittura sostenendo il fatto che l'app è per ora volontaria, ma secondo lui prima o poi dovrà essere necessario che non lo sia. Cioè, lui dice, ma prima o poi, se sarà necessario, l'app dovrà diventare in qualche modo obbligatoria, perché è fondamentale per provare a ritornare alla normalità e far ripartire il paese. E questa è la sua pia speranza. Penso che io dubito seriamente della capacità di analisi della realtà di una persona che mi dice la differenza la fa un'app. Vabbè. Certo, non dobbiamo diventare una nazione asiatica, no, non sia mai, per carità, siete l'Inghilterra, mica come quelle bestie che andavate a colonizzare. Riguardo alla privacy, e nel Regno Unito sarà un tema spinosissimo, quindi già si prepara a che gli tirano i pomodori. Ma un cambio di mentalità sarà necessario, e qui cita la grande cosa che dicono tutti i sostenitori del masticazzi tanto, se penso a tutti quelli che si lamentano per la privacy dell'app e poi hanno Facebook, che saranno pure tanti, però ad esempio io mi lamento per l'app, però Facebook non ce l'ho, quindi io posso non metterlo. Nel senso che sono legittimato, visto che sono uno che si lamenta sempre. E vabbè. Comunque la roba può anche essere interessante, però io quello che deduco da questa critica è ok, c'hai ragione, quindi facciamo anche disinstallare alla gente Facebook. E non, allora facciamogliele mettere tutte e due. E vabbè. E questo è quanto. E allora, per i motivi della scelta, ecco, forse l'ho trovato. Perché è stata scelta l'isola di White? Perché è un'isola quindi protetta, una popolazione oltre 140.000 abitanti, l'ho trovato, numericamente adatta allo scopo, anche a livello demografico. E poi perché altrove molti politici locali si sarebbero opposti. Qua invece siamo dei fessi e non ci opponiamo. Allora, 72.000 persone, oltre il 50% degli abitanti, hanno intanto scaricato l'app. Ed è un grande risultato, ancora di più se pensiamo che qui 75% a uno smartphone, quindi praticamente quasi tutti quelli che hanno lo smartphone hanno scaricato l'app. Poi sotto c'è ancora l'intervista con un po' di persone che si dicono alcune contente e altre meno, altri dicono sì, io l'ho messa perché ci tocca, ma appena posso la tolgo, altri invece hanno detto no, vabbè, ma io sono contenta, alcuni non sanno manco cosa sia, in particolare gli anziani dicono noi non lo sappiamo che cos'è, ma la nostra figliola o nipote invece ce l'ha, la nostra figlia l'ha scaricata, appunto. E insomma, via così. Cioè, come si può prevedere, appunto, le risposte delle persone sono varie, sono un po' tutte diverse. In generale prevale appunto dire siamo in un disastro, qualcosa dobbiamo fare. Se ci dicono scarichiamo l'app, scarichiamola per carità di Dio, basta che in qualche modo finisca. Io penso che sia un po' vendere delle illusioni alle persone, cioè senza una buona sanità tutto questo sarà assolutamente inutile, e con una buona sanità tutto questo è assolutamente accessorio. E quindi boh, cioè io la penso un poco così. E tant'è. Ora vi lascio ancora un po' di musichina. E poi magari andiamo a sentire finalmente Canna Camicia, che nel frattempo avrà scaricato, quindi giusto il tempo di portarla sul computer giusto, perché chiaramente nel mio caos della regia casalinga, non ho mai la cosa che mi serve dove mi serve, ma sempre da qualche altra parte più lontana. E tant'è. Ma presto, presto forse tornerò a trasmettere anch'io dalla Wombat, regia quella vera. Non si sa, però con l'apertura del 18, diciamo degli spostamenti, sarà quindi possibile andare a trasmettere nella Wombat regia, attività solitaria che si svolge in maniera appunto solitaria nel più completo rispetto delle distanze di sicurezza, essenzialmente perché sono completamente da solo in una stanza che posso anche disinfettare tutta e quando vado via, quando arrivo, e quindi così posso di nuovo riavere tutte le comodità della Wombat regia finalmente. Sarà una lacrimuccia, lascerò anche nel momento in cui ritrasmetterò da lì per la prima volta, probabilmente voi non la vedrete, perché tanto così. No, io sono burbero, no, non sono uso. Ho anche dei problemi di empatia proprio rispetto all'umanità, e quindi la lacrimuccia la farò in solitario e voi non vi accorgerete di niente. Ora, musica, se mi riesce, sempre. Benvenuti a Canne e Camicia, l'unica grande trasmissione di approfondimento meccanico di Radio Wombat. Oggi parliamo dei freni, maledettissimi freni. A cosa servono i freni? Secondo me, tra l'altro, sono anche assolutamente sopravvalutati. Infatti, non sono mai le grandi accelerazioni o le grandi velocità a uccidere, ma bensì le grandi decelerazioni e quindi maledettissimi freni. Insomma, i freni servono a farvi decelerare in maniera controllata. Ho deciso di fare un solo argomento, così è un po' più soft, si va un po' più tranquilli. Questa dovrebbe essere l'ultima puntata come inserto di coccoli per poi la prossima settimana emanciparmi e imparare a volare verso nuovi orizzonti. Bando alle ciance, i freni diminuiscono la velocità del veicolo tramite sfregamento, dissipando quell'energia in calore. Il dimensionamento dipende da vari fattori, ma essenzialmente è inutile o anzi potenzialmente pericoloso su un mezzo a due ruote avere un impianto frenante eccessivamente sovradimensionato. Infatti, deve essere dimensionato su tre parametri fondamentali: la velocità massima raggiungibile dal mezzo, il peso del veicolo e la forza di attrito sostenibile dallo pneumatico, che essenzialmente è legata al peso gravante sulla ruota, al coefficiente d'attrito e alla superficie dello pneumatico. Essendo il dimensionamento dello pneumatico dipendente dal peso, si può dire che quasi tutto dipende dal peso e ovviamente il coefficiente d'attrito. Infatti, quello che voi volete fare quando usate i freni è proprio fermare le vostre forze inerziali, che dipenderanno dalle energie accumulate dal vostro scooter e quindi dalla velocità e dal peso. Si spara subito un pezzettino musicale che ovviamente a questo giro con la parola break e poi vi racconto proprio come sono fatti dentro i freni. Allora vi sparo gli air che sono spettacolari con Break Song. And it occurred not in Los Angeles, New York, nor in London, but in the north of England on the banks of the River Mersey at Liverpool. It spread to a very localized trade and finally infected the whole international community. Beatlemania had arrived and the Mersey boom was on. Bentornati. Allora, torniamo alle nostre chiacchiere. Allora, di base normalmente su scooter e moto vengono montati due tipi di freni, a disco e oramai un po' più rari a tamburo. Riconoscere quelli a disco è facile, si vede normalmente il disco all'esterno, e se invece non vedete il disco, ma vedete una specie di bussolotto nel centro ruota nel quale entra un filo o un'asta, quello è un freno a tamburo. Quelli un po' più rari a tamburo, che prima venivano usati molto, e infatti per molti anni, nonostante esistessero già i più potenti freni a disco, continuavano a montare i freni a tamburo. Perché? Beh, è semplice. Perché sono più economici e, che dir si voglia, sono più efficienti. Ma allora, perché chiunque di noi abbia provato un motorino con i freni a tamburo ha notato che non frena una minchia? Semplice. Infatti, il motivo della miglior frenata di quelli a disco è l'impianto idraulico, che funge da moltiplicatore di forza che in quelli a tamburo dei motocicli non c'è. E in più è una grande capacità del freno a disco è quella di raffreddarsi. Cerchiamo di capire come sono fatti quelli a tamburo e capiamo perché sono più efficienti, ma in realtà meno usabili. Essenzialmente all'interno della ruota, subito all'esterno del mozzo, è ricavato un cilindro vuoto che girerà con la ruota. Questo cilindro è aperto su un lato, per capirsi tipo una pentola. Sulla parete agiscono le ganasce, che sarebbero il corrispondente delle pasticche nei freni a disco. Le ganasce sono due mezze lune che a un estremo sono come incenerate e da un altro vengono mosse da una lamella piatta che si ruota. Il meccanismo delle ganasce è solidale al forcellone e non può ruotare. Mettete le vostre manine a formare un cerchio tra pollice e pollice e indice e indice. E tenete fermo il lato dei pollici e aprite leggermente quello degli indici. Il risultato è un allargamento del cerchio e questa è un'emulazione di quello che fa esattamente il meccanismo delle ganasce. Questo allargamento del cerchio quindi farà strusciare nel cilindro che lo contiene, generando calore e frenando. Il bello dei freni a tamburo è la grande superficie di attrito delle ganasce e la buona forza che questo meccanismo riesce a generare. Infatti, la forza che voi fate sulla leva viene trasportata tramite un cavetto di acciaio e amplificata molto poco, per mezzo solo di qualche leverismo. I problemi principali però sono la bassa capacità di smaltire il calore e, raggiunto un calore eccessivo, l'efficienza dei freni cala drasticamente. Quindi non sono molto indicati per i mezzi pesanti o molto veloci. Ancora oggi negli scooter molto economici viene installato al freno posteriore per via della sua semplicità e del costo ridotto. Invece i più potenti freni a disco necessitano di un costoso impianto idraulico che deve amplificare tramite una pompa la pressione sulla leva del freno e ovviamente tutto l'impianto deve essere privo anche di una minima perdita d'olio, se no si rischia la perdita della pressione e l'impossibilità di frenare. Come funziona allora quello a disco? Beh, c'è un disco solitamente attaccato alla ruota e la pinza che contiene le pasticche attaccata alla forcella. Quando tiriamo la leva, azioniamo la pompa che mette in pressione l'olio, che spinge dei pistoncini che sono contenuti all'interno della pinza verso il disco e tra il disco e i pistoncini ci saranno le pasticche, che ovviamente per attrito rallenteranno la ruota. Il disco, potendo essere possibile comporlo di vari materiali e essendo all'esterno esposto all'aria, non presenterà enormi problemi di surriscaldamento e le pasticche, lavorando a pressioni enormi, possono permettersi di essere più dure e quindi subire meno l'effetto del surriscaldamento. È per questo motivo che ormai all'avantreno viene montato in tutti i motorini. Vorrei anche spiegare perché nell'impianto frenante si usa dell'olio speciale. Teoricamente, escludendo i problemi di ossido, funzionerebbe anche con l'acqua. Ma dopo poche frenate, inizierebbe a bollire per via del calore che passa dalle pasticche all'impianto idraulico, e producendo gas tutto l'impianto non sarebbe più comprimibile, che è una caratteristica dei soli liquidi. Quindi l'olio, che già ha già un punto di ebollizione molto alto, non basterebbe, ma qui ci serve un olio che abbia caratteristiche ancora migliori. Infatti deve anche cambiare il meno possibile la sua viscosità, resistendo agli sbalzi termici elevatissimi. Io metterei un altro pezzettino musicale con gli Offspring, No Breaks. Devo dire che cioè, gli Offspring mi sono sempre piaciuti, e anche l'album Americana me lo ricordo veramente con molto piacere. Torniamo a noi. Allora, cosa succede quando si frena? Quando si frena, scusate, alla dinamica dello scooter? Beh, c'è un enorme spostamento dei pesi all'avantreno, che porta a un abbassamento delle forcelle, e questo porta ancora a un aumento dello spostamento dei pesi. Gli ammortizzatori quindi aiutano la frenata in tre modi: addolciscono lo spostamento dei carichi, ne amplificano l'effetto e abbassano il baricentro. Aumentando il peso sulla ruota anteriore aumenterà l'attrito dello pneumatico, garantendo un'ottima frenata. Al posteriore invece, se, praticamente, seppur la sospensione frenando tenderà un po' a quattarsi, inevitabilmente però lo spostamento dei pesi andrà comunque in avanti, e quindi risulterà essenzialmente impossibile frenarsi in spazi ragionevoli usando solo il freno posteriore, perché la gomma, in assenza di peso e attrito, tenderà a bloccarsi e quindi scivolare. Allora, però, essenzialmente per una buona dinamica e una buona guida è necessario usare entrambi i freni per bilanciare il carico del veicolo. Inoltre vorrei ricordare come, essendo la ruota anteriore l'artefice della maggior parte delle forze che ci tengono eretti, una perdita di aderenza per eccessiva o repentina frenata all'anteriore ci farà cadere, mentre la ruota posteriore prende poco parte ai momenti raddrizzanti ed è possibile bloccarla senza cadere. Perciò su fondi bagnati è desiderabile usare con molta cautela il freno anteriore. Infatti, la vera tecnica di guida di un mezzo a due ruote non è quella di frenare bruscamente in presenza di un ostacolo, ma tentare di schivarlo. E qui, piazziamo un altro pezzettino musicale, Roosevelt Road con The Breaks. Hey, shout out to Roosevelt Road from Liz. I'm from Ixtapa, New Mexico, and I love all of your music. Keep up the good work. $1,000 rig leaving Oklahoma, Texas, New Mexico, and on to Arizona. World's oldest rodeo in Prescott, 4th of July. Gonna be red hot, lot of money on the line. 1,000 miles to drive, got a full tank of diesel and a dog by my side. Clear blue skies as far as I can see. Spend more time on the road than at home, it seems. 2,500 miles coast to coast. I rode in the finals and been tangled in the ropes. I have friends in every state and buckles every shape, pedal to the metal and stay off the brakes. Roosevelt Road, this is Stormy Wing. We're heading down the road, going to St. Louis, tame wild bovine athletes, because we are the best. We just wanted to give y'all a shout out. We're jamming this shit right now. Check it out. My mind on my money in my glove box, a cock Glock in between my boot and the wool sock. Inside the living quarters, cleaned up the linoleum, need some petroleum, so I hit the truck stop, fill it up with green light, whiskey and potato chip, pedal to the floor, see how heavy these blue cases get. Seen a couple lizards, but you know I ain't got no time, better hit the tow road, back up on I-25, looking for the after party after I load up the saddle, thinking about livestock, but ain't talking about cattle, living on cigarettes and little Debbie cupcakes. Ain't worried about what you heard, better stay off the brakes. This is Brent Folkman, raised in Helldown, Utah. I love the Double R, Roosevelt Road. Outlaw's my anthem, and where I'm from, stick me back home to where I grew up. Keep up the great work. Outlaw Radio for Life. Not a roper, I just rap a lot. Grew up right up in it, call me Hot Shot. It's a family tradition, I chose a different lane. Hope I'm making them proud, got the short round playing loud. They're winning buckles, I'm selling records now. But I ride it and produce it for y'all. Someday I hope to have my own gold trophies on the wall. When I was 18, my coach asked me, "Son, your dad ropes and you rap." He started laughing, I said, "Yes sir, that's what's happening, pump your brakes." Hey, this is Farron Lucero, just hanging out with them boys from Roosevelt Road. Just wanted to give a shout out to all the many fans out there. Thanks for having us. Hope everybody's enjoying some great music. Because just like Turtle Powell, these rhymes and these lyrics were made to stick. So keep on loading them horses up and jumping in them diesel trucks. We'll see you down the road at the next show. Let's put in a little bit of that Roosevelt Road. Bella, bella, bella, mi è piaciuto un sacco sto pezzaccio, non li conoscevo, non capisco una ceppa di quello che dicono, ma molto bella, molto bella. Allora, grande richiesta del pubblico inesistente, facciamo la sezione diagnosi di un problema, che era la sezione che ho già tirato fuori l'altra volta, secondo me interessante, la ripropongo. Allora, quindi brevemente... problema, quindi come si presenta e cosa potrebbe essere. Ovviamente non lo prendete alla lettera, è una roba così intuitivamente. Allora, sui freni a disco, rumore metallico durante le frenate. Allora, è importante agire il prima possibile e cambiare le pasticche. Probabilmente è finito il ferodo della pasticca e siete alla placca metallica del supporto. Dovete sostituirla prima di graffiare il disco, perché il disco, in questo caso ferro su ferro, si graffia e dopo è un, diciamo, andrebbe cambiato anch'esso. Spesso lo scooter continua a frenare comunque abbastanza regolarmente, quindi non è che sentirete effettivi peggioramenti alla frenata, però questo rumore di ferro su ferro vi dovrebbe far fermare e cambiare velocemente le pasticche. Un altro problema: si è allungata la leva, la corsa della leva del freno. Non si è allungata la leva, sarebbe divertente, ma no, si è allungata la corsa della leva del freno. Allora, probabilmente avete il livello dell'olio basso per via del consumo delle pasticche. Infatti, più si consumano le pasticche, più i pistoncini che le spingono sporgeranno dalla pinza, e quindi l'olio della pompa dovrà supplire al gap provocato dalla riduzione del ferodo. Questo solitamente è un buon indicatore della quasi fine delle pasticche, ma ovviamente spesso non è calibrato dal costruttore, quindi nella maggior parte dei casi non vi fidate, è probabilmente un'altra cosa, cioè una probabilità che sia entrata aria o esca olio. Questo è molto pericoloso perché potrebbe lì per lì allungare leggermente la corsa, ma nel giro di poco potreste ritrovarvi senza freno. Infatti, ovviamente, come si diceva prima, l'impianto frenante per funzionare deve essere privo d'aria, perché sennò quando andate a pompare la pressione comprimerà l'aria e non sposterà i pistoncini. Un'altra cosa è la scattosità della leva o un indurimento. Allora, questo può essere causa di un cattivo scorrimento della pompa o dei pistoncini. In questo caso esistono comunque dei kit di revisione per sostituire le parti in gomma sia della pompa che dei pistoncini. Non sono particolarmente costosi, è una cosa che non è nemmeno particolarmente difficile, si può fare. E un'altra cosa può essere la ruota anteriore che scorre male e quindi rimane leggermente sempre frenata. Allora, solitamente è una degenerazione o un'otturazione dei tubi che bloccano il ritorno dell'olio. Infatti, normalmente dopo la frenata che le pasticche si schiacciano, naturalmente, non essendoci più la pressione, quindi a rilascio della leva, l'olio fluisce, torna all'indietro e allenta la pressione sul disco. Se ovviamente i tubi sono otturati, quando noi andiamo a tirare la leva potrebbe esserci un indurimento, o comunque anche potremmo anche non sentire un granché, essendoci un'esagerata pressione, un'enorme pressione dalla parte della pompa. Però quando tornano indietro non c'è una grande pressione, non c'è un'altra pompa che rispingerà l'olio indietro, tornerà naturalmente, quindi basta una piccola occlusione che questo porta al bloccaggio continuo della gomma, scusate, della ruota. Quindi un'altra cosa da fare in questo caso è la revisione dei gommini, dei pistoncini come sopra, oppure la sostituzione dei tubi. I tubi costicchiano. Allora, invece per i freni a tamburo di solito si presentano, diciamo, un po' meno problematiche, non essendoci un impianto idraulico. Quindi l'allungamento dell'escursione della leva, che in quel caso è normale perché con il consumo delle ganasce si ha un allungamento della leva, cioè un allungamento della corsa della leva, e non c'è grandi problemi, nel senso che solitamente vicino al tamburo c'è una vite di regolazione che, agendo su quella, si può tirare il cavo e riportarlo al giusto tiraggio. Un'altra cosa che potrebbe essere che frena a scatti, oppure anche che ruota male la ruota, nel senso che, come il discorso di prima del bloccaggio continuo, però questa volta non è continuo ma è come in delle parti tende a frenare pur non frenando, in delle parti invece è libero. Allora, in questo caso è probabilmente un'ovalizzazione del tamburo o delle ganasce, caso conviene cambiare comunque le ganasce per provare, ma probabilmente sarà il tamburo. In questo caso non c'è molto da fare se non cambiare il tamburo, ma il tamburo è solidale al cerchio, per cui toccherà cambiare il cerchio, oppure, come secondo me, tenerselo così e starci un po' più attenti. Dai, allora, buonanotte a tutti gli wombati, mi raccomando, non frenate ma schivate. vi lascio a Ginox con il grandissimo e mitico Coccole al Silicio. Quindi buon ascolto a tutti e a tutte. Ecco, mi aveva colto impreparato, pensavo mettesse la musica alla fine, invece no, ma solo ho dato questo assist e via, e quindi adesso tocca di nuovo a me. Vabbè, io ripiglio la palla dopo questo lungo speciale su l'annosa tematica della frenata, quindi ecco, io non lo sapevo che non dovevo frenare, dovevo schivare, meno male che non che guido poco, perché altrimenti sa che mi capitava che frenavo. E cioè, comunque è molto più utile ascoltare questa roba qua di Coccoli, vi serve anche per la vita normale. Io invece vi dico solo cose così di questo strano mondo dell'internet, dei computer, che palle. E vabbè, comunque niente, si era parlato di app. Allora volevo dirvi che ci avviciniamo al momento in cui ci sarà questa app Immuni. Oggi hanno pubblicato, o ieri, o boh, che cazzo so, insomma, prima o ieri o oggi hanno pubblicato, anzi ve lo so dire perché ci sono le date, eccolo qua, era precisamente, no, 4 ore fa è stato pubblicata l'ultima cosa. Ci sono delle, se cercate su GitHub Immuni-app, e il GitHub dove si presuppone verrà pubblicato prima o poi anche il codice. Per ora abbiamo un po' di descrizioni più o meno di alto livello su come funzionerà, non si specificano grandi cose, non ci si sbilancia, si parla di, in maniera non troppo chiara, si capirà meglio dal codice quali sono queste informazioni che vengono scambiate. Si parla di epidemiological information, che queste sono abbastanza dettagliate, sì. Boh, insomma, dovete dargli un'occhiata, è tutto ancora abbastanza generico, anche se viene detto passato come documento tecnico, è una roba più un abstract. E poi ci sono delle immaginine, nel senso che se voi andate nella directory design, che è stata aggiornata 4 ore fa, ma esisteva già 2 giorni fa nelle sue cose, ci sono delle schermate di come si presenterà l'app. Si è capito comunque che l'adozione di questa app sarà legata a un aggiornamento dei sistemi operativi Android e iOS, cioè se vi riesce ad aggiornare vi potete scaricare l'app, se siete tra quelli che non possono aggiornare potete legittimamente sentirvi non in grado di scaricare l'app, deficienti in questo senso, però insomma potete dire no, io la volevo mettere, guarda, ma c'ho l'Android vecchio, c'ho l'iPhone vecchio, non mi si aggiorna il sistema operativo, come faccio? Pazienza, io non ce l'ho perché proprio io non ce l'ho lo smartphone e risolvo il problema alla radice, non mi potete dare nessun'app perché il mio telefono non ce l'ha e mi dovreste prima regalare un telefono. E abbiamo fatto. E comunque niente, se volete ci sono questo, c'è una brochure, no, ci sono delle PNG che vi illustrano il design, come si presenterà. C'è anche un file api.yaml, che quindi hanno scelto come standard per la definizione di queste cose lo YAML, che è, insomma, è una roba maledetta, chi usa Ansible sa che di cosa sto parlando. Ebbene niente, qui spiega un pochino genericamente quali saranno queste api e come saranno utilizzate, non sono tantissime, quindi sì, una roba che si può leggere, i tipi di dati sono definiti, quindi ci si può avere un'idea abbastanza in realtà chiara delle api e del funzionamento. Pare che qualcuno abbia anche scritto dei commenti, pare. Cioè, così avevo letto sui giornali che c'è gente che ha commentato su GitHub. Ora volevo leggerne qualcuno live, ma non mi riesce. Mi si è rotto internet proprio quando mi serviva, come sempre. Comunque, niente, sostanzialmente stanno iniziando a pubblicare cose. Probabilmente il codice non ancora, perché il codice probabilmente non. Non lo so, avranno avuto un'anteprima per sviluppare questa cosa, perché se no tendenzialmente come facevano? E mi sembra un po' difficile. Issue, vediamo un po'. Ah, gli hanno segnalato che dovrebbero ripulire il linguaggio e togliere il gender specific language. Ecco. E poi ce ne sono un altro po' di cose segnalate, ma non lo so, sarebbe interessante leggere che cavolo hanno detto e se hanno anche risposto. Prendiamone una campione, questa qua del gender specific language. Be closed as well for the same reason. Praticamente hanno detto. No, niente. Boh, non lo so come hanno risposto a questa. Che okay, buffo che veramente la gente ci interagisce. vabbè. Vabbè, comunque se non avete niente da fare, vi andate a leggere gli issue aperti a Immuni App Documentation e vi potete leggere, insomma, che cosa la gente ha scritto. Magari quando rilasciano il codice le issue aumentano. Mi butta via questa cosa, però va bene. Tant'è, quindi niente, vi ho aggiornato come mio dovere anche sulla questione app. Ora abbiamo il design, le immaginine che la descrivono, un documento che lo spiega, uno YAML che ci racconta un po' com'è questa API. Mi sembra strano sia tutta lì perché mi sembra un po' cortina, però vabbè. E invece no, magari non l'ho guardata bene io, oppure è quello che serve veramente, e non lo so. Comunque, tant'è. Quindi ora sappiate che prima o poi questa cosa succederà, non si sa quando, il 16 maggio, magari i primi di giugno, non lo so, il tempo di testarlo un po' verso metà giugno, per le vacanze, via, per andare in vacanza accompagnati. E tant'è. Vi lascio un po' di musica, poi magari vi racconto ancora qualche cosina, che due o tre cosine me l'ero preparate, magari volevo tornare a parlare di intrighi internazionali e di malware e cose simili, quindi cambiamo un po' l'argomento, che questa cosa dell'app è noiosa, è noiosissima, basta, basta, non se ne può veramente più. Quindi ora un po' di musica e poi Spice Talk. She picked up a man. for hours a day. The clean-up woman, she'll sweep him off his feet. She's the one who take him in when you dump him in the street. So take a tip, you better get hip to the clean-up woman, 'cause she's tough. I mean, she really cleans. Rieccomi, vi dicevo appunto prima che volevo un po' rientrare in quel mondo che ogni tanto vi racconto delle vicende di hacking legate allo spionaggio internazionale. E questa settimana avevo appunto scorto una notizia che mi aveva interessato, così per lo spunto tecnico che mi era piaciuto, e parla in realtà di un modo in cui pare la Turla APT, cioè il Turla APT, cioè il Turla Advanced Persistent Threat, che è il modo in cui viene ci si riferisce a questo gruppo che pare abbia base in Russia e che sia un po' specializzato in spionaggio in vari settori, da quello governativo, militare, educativo, researcher, sì, varie farmaceutiche, anche compagnie farmaceutiche interessate dalla loro attività di intelligence. Quindi sembra qualcosa legato all'intelligence russa o qualcuno al soldo dell'intelligence russa che prende di mira appunto governi, ambasciate, cioè enti governativi, ambasciate, militari, scuole, luoghi di ricerca e via così, si interessano insomma dei fatti degli altri in vario modo. Ebbene, loro avevano sviluppato un proprio RAT, così, un Remote Access Trojan, come molti di questi programmi, cioè programmi che ti vengono installati e poi permettono di gestire il tuo computer da remoto, si basano su l'apertura di un canale cosiddetto di command and control, cioè un modo per cui io da remoto posso in qualche modo dare dei comandi al computer, dicendo che vorrei fare questo, vorrei che tu mi ridassi questi dati, cioè no, io voglio esfiltrare certi dati, voglio lanciare certi comandi, voglio fare certe cose. Negli anni ci si è abbastanza sbizzarriti nella creazione di canali coperti per queste attività, no? Cioè, ok, come ti ridò questi comandi, però, cioè, se è una roba che semplicemente mi collego a mi collego da remoto con che ne so, il monitor più banale, apre una roba tipo una reverse shell, però è molto sgamabile perché ci avrà una cosa che sta sempre lì in ascolto. Allora ci siamo un po' sbizzarriti, trovati in modo di camuffare, di dire ok, però allora magari metto i miei comandi dentro a un certo protocollo, a una certa roba. Questi hanno trovato un sistema abbastanza interessante che si basa sostanzialmente sull'utilizzo anzitutto di un protocollo abbastanza parecchio diffuso, che è l'HTTP. E in particolare loro danno i comandi non attraverso delle vere non attraverso un web services, ma solo attraverso i comandi, cioè i codici di stato HTTP restituiti a una certa richiesta. Mi spiego, ad esempio, il mio computer compromesso va ogni tanto a fare una ricerca verso un sito, un sito che può variare, che può essere encodato, che può essere encodato direttamente nel codice, ma che è magari un sito innocuo, un sito che sembra un sito di aggiornamento del computer, un sito, uno dei tanti cosi che girano sulla mia macchina, non so che cazzo faccio, io apro il browser e quello inizia a fare cose, non è che so proprio tutto quello che fa, così come non so tutto quello che fa la mia macchina normalmente, perché magari guardo e c'ha il certo coso che va a cercare là, tanto più se si parla di un telefono, cioè i telefoni normalmente comunicano in continuazione con l'azienda che li ha prodotti, no? Cioè te c'hai il telefono della Samsung, ogni tanto quello piglia, va a parlare con server della Samsung e tu capisci che sono server della Samsung magari solo dal fatto che vagamente si assomigliano a una cosa che si chiama Samsung, punto, cioè un punto qualcosa, punto Samsung, punto vaffanculo, non lo so. Cioè, insomma, lo capisci soltanto una tua capacità di intuire queste cose, anche perché poi invece magari spesso non i vanno direttamente a collegarsi con un IP, quell'IP provi a guardare e non corrisponde a un dominio specifico o se ne corrisponde ma in maniera va. Insomma, ognuno si inventa un po' le sue, quindi è abbastanza plausibile che il mio computer si vada a collegare a caso con dei siti utilizzando l'HTTP. Non è neanche una roba così troppo sospetta che uno dice no, questa cosa mi fa strano, mi sto collegando a una porta stramba. No, un'onestissima porta 80. Quindi, e cosa succede? L'altra macchina mi risponderà in qualche modo. Ebbene, loro si sono inventati con questi codici dei modi per dare le istruzioni alla macchina. Ad esempio, se io rispondo 200, cioè l'ok, quello è andato tutto bene, bomba, ora ti do i dati, questo significa per la macchina compromessa, spediscimi tutti i dati che hai collezionato in questo periodo indietro. Cioè, ridammi, cioè impacchetta tutto e mandamelo. Poi, se invece rispondo 402, che è nel codice, nell'RFC, che definisce il significato di questi codici, è payment required. Questo si usa per gli scambi, appunto, nel caso di un contenuto che richieda di una transazione fino a, diciamo, di denaro, no? E questo cosa significa? Questo invece dice, praticamente esegui tutti i comandi che io ti ho mandato prima, perché alcuni preparano solo l'ambiente, però non partono. Partono quando gli arriva payment required. Poi c'è il 422, utilizzano questo unprocessable entity, che è una roba legata a WebDAV, quindi è ancora un sottocoso dell'HTTP, e questo significa uninstall, cioè disinstalla tutto, cioè ci hanno sgamato, via tutto e a casa. Oppure ci stanno per sgamare, oppure meglio abbiamo fatto, scompariamo, non ci hanno beccato fino adesso, non c'è motivo di aspettare ci becchino. Se invece si usa 423, cioè quello dopo, che è locked, sempre legato al WebDAV, questo invece dice installa tutto. Cioè, c'è un primo stage probabilmente del malware che dice: ok, io adesso sto qua, non faccio niente, sto qua, non mi nota nessuno. A un certo punto vado a collegarmi a quest'altro server che mi dà come risultato 423. Allora dico: ok, bomba, via, facciamo il nostro e mi installo. Già installa, diciamo, tutta la parte più complessa del malware, no? Non solo il cosiddetto dropper che rimane lì in attesa, così a aspettare. E poi 424, che è failed dependency, questo tenta di fare una specie di impronta di capire un po' dov'è, e quindi fa una specie di impronta di carta d'identità, colleziona un'impronta del server, il fingerprint, e poi in questo manda praticamente il nome dell'host, la rete in cui si trova, quindi gli indirizzi anche, e poi anche se lo riesce le informazioni legate alla geolocalizzazione. Quindi ti dice un po' dove sono, sì, tu insomma si aiuta a definire. Con il 427 invece, che è undefined HTTP status, andiamo a eseguire un nuovo comando. Questo nuovo comando viene appoggiato, cioè la lista dei comandi da eseguire dovrebbe stare dentro un file che si chiama IEA 94E3.tmp nella directory temp del sistema. Questo file dovrebbe essere stato appoggiato lì, cifrato. Questo file viene decifrato e vengono eseguiti i comandi che ci trova dentro. Questo è più o meno quello che ho capito, potrei aver capito male. Il 428 invece è precondition required, e con cosa si fa con questo? In questo gli si dà l'ordine, ok, cerca di propagarti attraverso i device USB, cioè appena uno infila la chiavetta USB, copiatici sopra, quando uno la rinfila, ributtati dove arriva arrivi. E così si spreada anche in computer che magari non sono collegati alla rete, ad esempio, no? I computer AirGap, o comunque io mi collego un attimo al computer del lavoro, poi rimetto la mia chiavetta per portarmi sul mio computer di casa, zac, capito? È forte questa cosa. I 429, poi ne riparliamo dopo perché c'è anche un'altra notizia legata a questa cosa dell'USB che è interessante. I 429 è l'ultimo di questo elenco, che è Too Many Request, e questo cosa fa in verità, secondo App, cioè cosa fa fare al nostro malware, al nostro RAT? Gli fa enumerare le risorse di rete disponibili sul target. Quindi vado un po' a cercare di capire dove sono collocato a livello di rete e che posso combinare. Quindi, questo niente, era un po' per raccontarvi questa storiella. Mi era piaciuta, che si basa tutta appunto su questo canale di Command and Control, basato essenzialmente, a parte sul 200 iniziale, tutto sui codici della famiglia 4XX. Forse è andato via un po' l'audio perché mi si è annerito lo schermo, scusatemi. Sulla famiglia 4XX, dove XX appunto sono delle altre cifre, no? 402, 420, abbiamo parlato di questi numeri qua, dello standard definito nell'RFC relativo all'HTTP. E quindi ora vi lascio con un po' di musica, poi sono già le 20:36, vi racconto ancora quest'altra storiella che avevo su appunto sui malware che si diffondono via chiavetta USB, che mi sembrava bella come cosa, non particolarmente originale, però siccome non l'ho letto in questi giorni, vi volevo un po' riportare questa mia lettura con le mie parole, spero comprensibili. Insomma, faccio quello che posso. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, do, do, Lord, Lord. You look like when you're doing what you're doing, it's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself, express yourself. You're doing it on the moon, y'all, in the jungle, too. Express yourself. Do, do. better raise yourself, raise respect. Rieccomi. Mi dicevo prima di questa, insomma, di questa notiziola legata all'USB, perché ho letto un articoletto che hanno rinvenuto in giro, insomma, un cosino che si chiama Ramsey, un malware, sì, che dovrebbe fare parte, secondo loro, di un qualche tipo di malware studiato per andare a colpire le cosiddette air-gapped network, cioè quelle reti che non sono direttamente collegate a internet, tipo un computer isolato che non si collega mai alla rete, posto magari in un luogo chiuso, in un luogo controllato, militarmente controllato, no? Con delle guardie all'ingresso, delle guardie fuori, e poi dentro ci sono dei computer, però questi computer non sono collegati a internet. Come era ad esempio il caso, che ne so, della centrale nucleare di Natanz nella vicenda Stuxnet, e che non vi sto a rivogare tutto. Era quella roba del virus per mandare in flip insomma, per incasinare le turbine della centrale nucleare iraniana, che appunto non era collegata a internet. Per infettarla hanno utilizzato un sistema di questo tipo, in particolare appunto si pensa basato a qualcuno che entra dentro con una penna USB, magari anche uno pagato per, o comunque una persona in qualche modo connivente, no? Uno che in qualche modo ma l'ho convinta a fare questa cosa, quindi una persona autorizzata che mette la chiavetta nel momento giusto. E appunto questo Ramsey è questo parte di malware che è stato ritrovato, che colleziona PDF, zip, documenti Word, li piglia e li stora da una parte, così. È un malware che non fa più di questo, e l'altra cosa che fa anche è si copia attraverso, in particolare in due modi, cioè attraverso, appena metti una penna USB, lui si copia sulla penna USB, quando la metti in un'altra parte lui si ricopia fuori dalla penna USB, e l'altro modo è attraverso le share di rete. Quindi io magari ce l'ho sul computer air-gapped che non è collegato a niente, metto la penna USB, tolgo la penna USB, la infilo su un altro computer, quel computer ha delle connessioni di rete, zac, lui si copia anche attraverso le connessioni di rete, così gira. L'altra appunto cosa che fa, quando arriva sul computer può copiare dati e li può salvare o su una penna USB, quindi io mi salvo tutti i dati, poi passa uno con la penna USB, la infila, zac, e io mi ritrovo i dati sulla penna USB. Poi magari quella persona prende, va a casa sua, attacca la penna USB su internet. A quel punto supponiamo che io abbia il mio malware Ramsey, che abbia già preso il controllo di quell'altro computer. Allora semplicemente io posso dare il comando a Ramsey, dico ok, è arrivata la penna USB con i documenti, ridammi i documenti, portameli via. O altrimenti potrei anche fare che Ramsey, nel momento in cui si va a copiare, però questo non lo fa questo Ramsey, quindi si dà per scontato che sia parte di un'infrastruttura più ampia che non è ancora svelata. Però quello che uno potrebbe fare è dire ok, mentre quando Ramsey copia i dati sulla penna USB, copia lì sopra anche un malware che prova, nel momento in cui si infila la penna, a prendere il controllo del computer per poter copiare i dati indietro a casa, o comunque a non prendere il controllo del computer ma a copiare i dati a casa. Cioè appena arrivo attaccato a qualcosa che c'ha internet, cerco di portare via le cose. Si parla appunto di tecniche ovviamente di spionaggio, quindi non... cioè di come avvengono queste cose, per quello che vi dicevo la spy story, no? È questo. Un altro caso, che questo sarebbe diciamo quello più Natanz style, o comunque quello più legato a all'unione tra le tecnologie e probabilmente uno spionaggio più classico fatto da persone, o comunque fatto da persone ricattabili, o comunque persone pagate per, insomma, persone che io posso infiltrare in un'organizzazione. Quindi una parte la fa l'informatica, la fa la mia pennina USB che finisce nel posto giusto al momento giusto, e copia questo RAMSI sulla macchina. Poi io per settimane colleziono cose, e poi a un certo punto un omino passa, rinfila un'altra penna USB. A questo punto RAMSI si accorge, c'è la penna USB, allora zac, gli copia tutto sopra, mi ripiglio la penna e me ne vado via. Quindi nel primo caso si parlava, quello che vi avevo detto, no? Cioè, per caso una persona che magari è già stata infettata da questo RAMSI nella versione quella più potente, diciamo, oppure una persona che involontariamente, cioè che non è stata infettata da RAMSI, ma nel momento in cui infila la pennina USB nel proprio computer viene infettata. Comunque si parla di una persona inconsapevole che infila la penna USB e poi la rinfila nel proprio computer, ma senza essere cosciente di quello che sta facendo. Semplicemente mi serve come passaggio umano per superare l'air gapped, no? Cioè, il computer sarebbe isolato, ma i computer di solito, se non c'hanno davanti anche uno che smanaccia sui tasti, servono tendenzialmente a poco, no? Quindi in qualche modo, se il computer è isolato dalla rete, non è che c'è uno da remoto che si può collegare, ci dovrà essere un omino che fisicamente va lì. Ecco, quell'omino inconsapevolmente potrebbe infilare la penna USB, andare via e poi infilare la penna USB in un computer che ha internet. A quel punto io mi gioco la possibilità di recuperare i dati. L'altro caso è invece che questa roba qua sia fatta da una persona consapevole. Cioè, in qualche modo RAMSI è arrivato lì sopra, magari con l'aiuto di questa persona, che lo fa girare per un mese. Dopo un mese questa persona torna su quel computer, prende i dati, li porta e poi semplicemente a quel punto, essendo il mio connivente quella persona, non c'è bisogno che mi invento degli stratagemmi per recuperare i dati. E vi parlavo di queste cose perché appunto sono degli scenari che in qualche modo si riferiscono a un vero mondo dell'intelligence, di come avvengono queste cose. E, insomma, non è niente che uno non potrebbe dedurre, cioè non è che c'è bisogno che te lo spiego io, forse ha senso, già ci arrivavate da soli, però se non ci arrivavate, comunque dei pezzi di cose vi mancavano, sappiate che più o meno le cose vanno qualche volta così, o almeno questo ci dice Kaspersky, che è quello che ha fatto l'indagine, credo, perché di solito l'hanno sempre fatta, se l'hanno fatta loro l'avrà fatta qualcuno come loro. Sì, ora non riesco a ritrovare precisamente chi ha fatto questa roba. Ah no, invece no, sono due ricercatori, o uno solo, ESET, che cavolo sarà? Dice Cyber Security Researcher at ESET, sarà un'azienda? Sarà un... sono ignorante, non lo so che è sto ESET, scopritelo da soli, cercate ESET Cyber Security su Google e capite che cavolo è questo. Ora vi lascio un po' di musica, poi chiudo perché sono le 20:49, quindi ho dato per questa sera. Tra l'altro oggi dovrò appunto pubblicare anche il podcast della scorsa settimana, che me ne sono dimenticato, cioè l'ho messo solo, l'avete sentito forse in replica qualche volta passare su Radio Wombat, perché mi sono ricordato di metterlo lì, ma non mi sono ricordato di caricare il podcast su blog, quindi a sto giro li carico entrambi, ci avete doppia puntata. Frizzantissimo, bellissimo. E basta, vi do appuntamento la prossima settimana, appunto spero la prossima settimana di trasmettere da una Wombat regia stabile, non dalla mia Wombat regia casalinga, che appunto mi sono stancato, e quindi magari avrò un microfono, un mixer, delle cose che mi permetteranno di essere molto più tecnicamente puntiglioso di quanto non lo sono ora. E nulla, vi lascio alla musica e poi alla consueta programmazione fatta di bobina e le letture e cose che non so perché non mi ricordo, perché sono un maleducato, No, è che oggi l'ho fatta un po' di corsa, non mi sono documentato di che c'è dopo di me e non ve lo so dire, ecco. Quindi alla prossima diretta con la mia voce sabato, ma la prossima diretta è già domani domenica alle 19 e vi auguro un buon sabato. Ora possiamo quasi uscire, quindi magari qualcuno di voi metterà anche il musetto fuori casa, ve lo auguro. Io tendenzialmente non c'ho un cazzo da fare stasera, quindi sto a casa. Cioè si torna alla mia vita normale. Prima mi potevo lamentare perché ero costretto a casa dalla pandemia e dal lockdown. Ora è finito e uno fa i conti con il fatto che sabato sera comunque non c'è un cazzo da fare. Così va la vita. E quindi vi lascio a Soulful di Paul Kelly. Non so perché vi ho detto anche cosa vi faccio ascoltare, non ve lo dico mai praticamente. Ma adesso per chiudere mi andava di dirvelo. So così sono un po' capriccioso. E ora se gentilmente mi parte, mi fa sto favore per una volta. Ecco. Vai, ce l'ho fatta. Thank you. Sweep him off his feet.